Quando leggevo nella Bibbia che l'avidità o l'amore per il denaro sono la radice di tutti i mali, non ne capivo il vero e profondo significato. Dopo lunga riflessione ho compreso che questo era dovuto anche al fatto che io fin da piccolo sono stato esente da questa mancanza. Forse qualcuno penserà che sia un atto di superbia e di sopravvalutazione, ma non ne sono convinto, perché anche se tutti abbiamo delle inclinazioni sbagliate, non tutti abbiamo le stesse tendenze. Diversamente, non potremmo distinguere i maliziosi, gli invidiosi, i vanagloriosi, gli insensati, e la lista sarebbe lunga, fino a terminare con gli avari. Questo è un aspetto da ricordare nel corso delle nostre conversazioni, perché a volte per giustificarsi si dice che siamo tutti uguali, e seppur è vero che tutti siamo malvagi e mancanti, non è tuttavia vero che tutti abbiamo le stesse mancanze. Perciò, se ritengo di non essere avaro, non è per un atto di orgoglio, ma perché per me il denaro è stato sempre il mio servo, ma mai il mio padrone. Già questa prima definizione stabilisce chi è un avaro. L'avaro è colui che ha un'ossessione verso ciò che possiede, soprattutto con il denaro. Forse una delle cose più difficili per noi è capire se veramente siamo avari, perché l'avarizia non si presenta sempre nel suo aspetto più ripugnante, ma a volte si nasconde anche dietro un atto di grande generosità, a tal punto da rendere quasi impossibile a chi ne è schiavo di capire in quale situazione si trova. Come può un gesto altruistico risultare un atto di avarizia? Come può una disponibilità verso gli altri essere avidità? E, proprio perché siamo tutti complessi e complessati, che non riusciamo a vedere le nostre ombre, tuttavia a volte un aneddoto può aiutarci, ne prendiamo uno. Un giovane chiede di entrare in un monastero, il maestro gli chiede: se tu avessi 3 monete d'oro, le daresti ai poveri? Il giovane risponde senza esitazione: sì, padre, con tutto il cuore. Il maestro chiede ancora: e se avessi 3 monete d'argento, le daresti? Certo. Ben volentieri, risponde prontamente il giovane. E se tu avessi 3 monete di rame, rincalza il maestro. Anche stavolta la risposta arriva senza esitazioni. No, padre, perché? Chiede stupito il maestro. Perché le ho? Questo aneddoto, non troppo surreale, la dice lunga per 3 motivi. Molte volte si è disposti a dare solo come principio di altruismo. Avendo un'educazione cristiana, sentiamo fin dalla culla l'ordine e l'invito ad essere altruisti, ad aiutare il prossimo, a pensare agli altri almeno come a noi stessi. Per cui l'altruismo, almeno per chi segue la fede cristiana, fa parte del nostro DNA, è presente nel nostro linguaggio, nella nostra cultura, nella nostra cultura, nella nostra poesia e nei canti. Per un credente cristiano non è concepibile un'esistenza senza dare al prossimo. Tanto è vero che non sono pochi gli inviti fatti per televisione a sostenere finanziariamente le persone bisognose, i centri di aiuto, i malati incurabili. In caso poi di calamità naturali, si è perfino infastiditi da questi continui appelli alla generosità. Cosa che non si farebbe se non si avesse un riscontro. L'aneddoto che abbiamo fatto mette in luce anche come si comporta la nostra avarizia. Quanto si tratta di mettere in pratica il principio del dare, allora nascono i problemi. Ecco perché è giunto il momento di smetterla di parlare, parlare e parlare, per poi dire nulla e di iniziare ad essere attivi, di mettere in pratica ciò che si dice. Quando Gesù dichiarò: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, voleva proprio dire questo. E l'apostolo Paolo, che prese sul serio le parole di Gesù, scrisse ai credenti che abitavano nella città di Efeso: sappiate infatti questo. Nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Efesini 5. 5. Il vero cristianesimo non è una filosofia, un bel insegnamento o vita contemplativa che si confronta con altre religioni, ma è vita pratica. L'amore per Dio non è sentire qualcosa, ma ubbidire alla sua volontà. Cose queste che non bisognerebbe dire e ripetere, ma il fiume inquinato dell'aspetto religioso del cristianesimo ha avvelenato il Vangelo di Cristo. Un terzo aspetto che ha messo in evidenza il nostro aneddoto è che l'avarizia salta fuori quando l'atto di generosità costa qualcosa. Infatti il giovane era prontissimo a dare oro e argento perché non li possedeva, ma quando si è trattato di dare qualcosa di suo e al quale teneva, allora la sua disponibilità, la sua prontezza, si rivelarono quali erano: sentimenti vuoti, motivazioni inermi. Ecco perché chi è avaro molto difficilmente può entrare nel regno di Dio, perché per far parte dei salvati occorre pagarne il prezzo. Occorre sapere rinunciare e, se uno non è abituato a rinunciare al valore che dà per le cose terrene, come può farlo per delle cose che non vede? Forse qualcuno rimarrà stupito, ma l'avaria soffiava subdola anche tra i primi cristiani, quando compivano uno dei più grandi gesti di generosità, cioè nel dare del denaro. Paolo ne parla nella seconda lettera, indirizzata ai credenti di Corinto, credenti ben noti per il loro zelo. Egli inizia così: riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Dunque, questi credenti erano prontissimi nel dare del denaro, nell'aiutare coloro che avevano più bisogno di loro stessi. Per questo Paolo manda alcune persone per vedere le vere intenzioni dei corinzi e continua la sua lettera dicendo: «Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo, per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa perché essa sia pronta come dono di generosità e non di avarizia». 1 Corinzi 9.15. L'Apostolo Paolo non si era accontentato della prontezza e disponibilità dei credenti, perché, come abbiamo constatato, l'avaro può essere anche pronto a compiere gesti altruistici, per cui ora chiede di mettere in pratica la loro liberalità, però, non come atto di avaria, ma come dono di generosità. Ecco un pericolo nel donare. E un atto di avarizia quando si dona pur non volendo donare, quando il dono è quasi obbligatorio. Per salvare una certa reputazione, quando si dona solo per colmare, casomai, un senso di colpa o si vuole far tacere la propria coscienza. L'avarizia non si dimostra solo nel non dare, ma è molto più subdola, quando compie il gesto di carità ma privo di felicità per aver compiuto l'azione stessa. Ecco, perché Paolo dirà sempre in questa lettera che Dio ama un donatore allegro, 2 Corinzi 2.9, perché il vero donare corrisponde sempre ad un rinunciare a qualcosa che ti costa e al quale tieni, e nessuno è in grado di essere felice di ciò di cui si priva, se non lo compie come atto di amore. Infatti, un aspetto del vero amore è proprio quello di soffrire nel dare, di soffrire per una privazione, perché l'altro si è arricchito. Non è stato forse così per Dio quando ha dato o si è privato di suo figlio? Perché gli uomini siano salvati, esiste forse un altro amore? L'amore per il prossimo non è forse dare la nostra vita per lui? 1 Giovanni 3.16. Dare del denaro per il prossimo non è forse un atto di schiettezza del nostro amore? 2 Corinzi 8.8. Chi non ha compreso questo è ancora un avaro, e i suoi gesti di altruismo sono ancora atti di avarizia. Dare quello che costa. Questo è il vero atto di altruismo. Diversamente, si è come il protagonista di un altro aneddoto citato da Trilussa. C'era un vecchio ricco, concupiscente e avaro. Avaro, al punto tale, che guardava i soldi nello specchio per vedere il capitale raddoppiato. Un giorno, spinto da un grande gesto di umanità, davanti allo specchio disse: «Quelli li do via come atto di beneficenza, ma questi me li tengo per prudenza». E li ripose nella scrivania. L'avaro accumula per tenere, l'uomo generoso accumula per donare. La soddisfazione dell'avaro nell'accumulare dei beni non gli toglie la tristezza né la solitudine. Se alla povertà mancano tante cose, all'avarizia mancano tutte. La parola di Dio, scritta 3000 anni fa, ne traccia un quadro drammaticamente realistico. Chi ama il denaro non si sazia di denaro. E chi ama le ricchezze non ne trae profitto. Anche questo è vanità. C. È un altro deplorevole male che ho visto sotto il sole: ricchezze conservate per il loro proprietario a suo danno. Quelle ricchezze vanno perdute per un cattivo affare. Come era uscito dal grembo di sua madre, così nudo tornerà per andare come era venuto, senza prendere nulla dalla sua fatica che possa portare via con sé. Anche questo è un male deplorevole. Che se ne vada, esattamente come era venuto. E quale vantaggio ne ha dall'aver faticato per il vento? Inoltre, egli mangia tutti i giorni della sua vita nelle tenebre e ha molte afflizioni, infermità e cruci. Ecclesiaste 5.1017. I tesori dell'avaro in realtà lo impoveriscono, lo spogliano della capacità di donarsi e di relazionarsi agli altri in modo disinteressato. Quando Gesù disse «Fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede», Luca mezzogiorno e un quarto voleva intendere non solo la vita eterna, ma si riferiva anche alla vita vissuta su questa terra, perché l'avaro diventa incapace di esperienze disinteressate, ma ne calcola i costi e l'utilità. È incapace di nutrire sani e onesti sentimenti, di provare desideri e progetti di vita per il solo bene del prossimo. Non a caso, tra i vari peccati che non devono caratterizzare un conduttore di chiesa, vi è quello dell'avarizia. 1 Timoteo 3.3. E al credente è ordinato di non avere relazioni stabili e durature con gli avari. 1 Corinzi 5.11. Ecco allora che si comprende la tremenda e fatale verità che l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Questo malsano desiderio porta anche a perdere la fede. E così deve essere, perché la vita cristiana è un donarsi a senso unico e procura molti dolori. 2 Timoteo 6.10. La terapia per questo infame vizio è fuggirne la pratica. Iniziare subito a donare ciò che costa, e il Dio che dona generosamente ogni cosa capirà le intenzioni e sostituirà l'avarizia con uno spirito di generosità e di liberalità senza eguali. Anziché essere come il mare, che riceve un gran numero di fiumi e non si riempie mai, il credente diventerà una fonte di benedizione per l'intera umanità, niente meno che simile a Dio. Aprile 2010, Ellero.